chi è? Chiamali! Che facendo c'è? Beh, parla bene, bello bene. Ma che fa la vergogna delle quelle parole? Senti, Giomari, bubu, allucinati, niente macca, bruffi, va? Ohia! A quello deve essere guasto veramente! È nato malato, gatto, a dire queste cose in frequenza! E la sappi, ti passa pure le ore! Per carità! Ogni tanto li sentivo uno che... Bisogna ricoverare quello perché si sente male. Ebbene, tutto bene, Lu? Sì, comunque auguri a Giovanni, tutto bene, dai, tutto bene. Meglio così, a faccia a chi lo vuole. Ma non c'è problema. Non problem. E tu, tutto bene, sì? Ah, grazie a Dio, per essere peggio, meglio così, a essere tutti i bombari come te noi. Avvenumi, vabbè, dai, qualche gambo già ce l'abbiamo mangiato, dai. Ehi, l'hai sentita allo chef. La mamma sta dicendomi, Giomari, fregatene. Ehi, vabbè. E infatti, bisogna lasciare perdere. E cosa ci vuoi fare? No, so perché danno certe cose a certe persone. A quanto ho sentito. Sorvoliamo. Vabbè, io mi sono acceso già la stufa, stava cominciando a scendere un po' di umidità, allora già chiesa. E allora comincia a starsi vedda. So che ora l'hai accesa, Mari? 2:30, si sta bene. Adesso si dico, dove mangio una fetta di barettone, a chi ha più fame? L'ho già fatto, Gio Mario, budino e una fetta di pandoro. E dato tra un po' me ne vado a casa, dai. Ok, saluta tua madre, fai gli auguri a parte nostra. Grazie, Gio Mario, cosa ha cambiato la parte sua, dai.